ti ascolto, sembra tutto inutile, pensi non so, siamo così lontani, questa forza di trovarsi in noi. Fermare no, liberati se vuoi, prendersi a cercare, scorrere nel tempo, in un attimo attento, gli occhi che io ho, per osservare il mondo, scopre solo anche tuoi. Giuro come un temporale, vorrei soltanto vedere tu la mia prigione, ma col tuo sorriso siamo amanti perduti, senza ricordo di noi, ma col tuo sorriso siamo amanti perduti, senza ricordo di noi. Luci di luna, cuori vicini, sabbia che scorre, sembra tutto inutile. Se mi pensi non so, siamo così lontani, questa forza di trovarsi. Guardo di noi.